Capitolo 24. Il giorno dopo non ci fu nessuna occasione per mettere in pratica il progetto di visitare i misteriosi appartamenti. Era domenica e tutto il tempo tra il servizio religioso della mattina e quello del pomeriggio fu impiegato, per desiderio del generale, a passeggiare all'aperto o a mangiare carne fredda in casa. E per quanto grande fosse la curiosità di Catherine, non le bastava il coraggio per esplorarli dopo cena, alla luce morente del giorno tra le 6 e le 7, o a quella ancora più incerta, seppur più forte, di una infida lampada. Non accadde niente dunque che colpisse la sua immaginazione, tranne la scoperta di un monumento molto elegante alla memoria della signora Tilney, che si trovava proprio di fronte all'inginocchiatoio nella cappella di famiglia. Il suo sguardo ne fu attratto immediatamente e trattenuto a lungo, e mentre leggeva il retorico epitaffio in cui l'inconsolabile marito, che probabilmente era stato in una maniera o nell'altra il suo carnefice, le attribuiva ogni virtù, si sentì commossa fino alle lacrime. Che il generale, dopo aver fatto erigere quel monumento, riuscisse a posarvi lo sguardo, forse non era molto strano. Eppure che egli potesse sedervi di fronte così sfacciatamente, padrone di sé, mantenere un'aria così nobile, guardarsi intorno così impavido, anzi, che egli riuscisse semplicemente a metter piede in chiesa, era qualcosa che meravigliava profondamente Catherine. Non è che mancassero comunque gli esempi di esseri ugualmente induriti al peccato. Poteva ricordarne dozzine che avevano perseverato in ogni vizio possibile, passando da un crimine all'altro, uccidendo chiunque gli venisse voglia di eliminare, senza provare mai il minimo sentimento di umanità o di rimorso. Finché una morte violenta o il ritiro in un monastero non avevano messo fine alla loro peccaminosa carriera. Che fosse stato eretto un monumento alla memoria della morta non intaccava per nulla i suoi sospetti che la signora Tilney fosse viva. Se anche fosse discesa nella tomba di famiglia, dove si supponeva riposassero le sue ceneri, se anche avesse visto la bara in cui si diceva fosse rinchiusa, cosa avrebbe provato tutto ciò? Catherine aveva letto troppo per non sapere perfettamente con quanta facilità si potesse sostituire a un morto un manichino di cera e tenere un falso funerale. La mattina successiva si presentò sotto auspici più promettenti. La passeggiata mattutina del generale, per quanto inopportuna da ogni altro punto di vista, costituiva in questo caso un elemento favorevole e quando fu sicura che gli era uscito, Catherine immediatamente propose alla signorina Tilney di mantenere la sua promessa. Eleanor si dimostrò pronta ad accontentarla e, dato che, mentre salivano, Catherine le ricordò un'altra sua promessa precedente, la loro prima visita non poté che essere al ritratto della sua camera da letto. Rappresentava una donna molto graziosa, dall'aria mite e pensosa, che rispondeva fin qui alle aspettative della sua nuova osservatrice. Ma queste aspettative non furono completamente soddisfatte, poiché Catherine era stata sicura di imbattersi in lineamenti, in una certa aria, in un aspetto che dovevano corrispondere esattamente, essere l'immagine precisa, se non di quelli di Harry, di quelli di Eleanor. Infatti, gli unici ritratti ai quali aveva l'abitudine di pensare testimoniavano un'esatta somiglianza tra madre e figli. Un certo viso, una volta entrato in famiglia, ci restava per generazioni. Ma in questo caso dovette osservare il quadro, riflettere e studiarlo per trovare una somiglianza. Lo contemplò, comunque, nonostante questo inconveniente, con molta emozione. E l'avrebbe lasciato malvolentieri se non per qualcosa di ancora più interessante. Quando entrarono nella grande galleria, era troppo emozionata per provare a chiacchierare, poteva solo guardare la sua compagna. Eleanor sembrava triste ma calma. E quella compostezza dimostrava che era abituata alla vista di quei tetri oggetti verso i quali si stava dirigendo. Passarono di nuovo attraverso la porta scorrevole, di nuovo la sua mano si posò su quell'importante chiavistello. E Catherine, che riusciva a malapena a respirare, si stava girando a chiudere con timorosa cautela la prima porta, quando le si parò davanti, all'altra estremità della galleria, proprio la figura, la terribile figura del generale in persona. Nello stesso tempo il nome Eleanor, da lui gridato, risuonò per tutto l'edificio, rivelando per la prima volta alla figlia la sua presenza e aggiungendo per Catherine terrore al terrore. Quando l'aveva visto, il suo primo istintivo movimento era stato un tentativo di nascondersi, anche se non poteva sperare di essere passata inosservata. E quando l'amica, dopo averle lanciato in fretta un'occhiata di scusa, lo ebbe raggiunto e fu scomparsa con lui, Catherine corse a rifugiarsi nella sua stanza e, chiudendosi a chiave, pensò che non avrebbe mai e poi mai avuto il coraggio di uscire. Vi rimase almeno un'ora, terribilmente sconvolta, a commiserare profondamente la condizione della sua povera amica. E in attesa di venire lei stessa invitata dal generale in collera e seguirlo nel suo appartamento. Non arrivò comunque nessuna convocazione e finalmente, vedendo arrivare all'abbazia una carrozza, trovò il coraggio di scendere a incontrarlo, fidando nella protezione dei visitatori. Nella sala della colazione trovò riunita una gaia compagnia e venne presentata dal generale come l'amica della figlia in uno stile complimentoso che nascondeva così bene la sua ira, colma di risentimento, da farle almeno sentire che per il momento la sua vita non era in pericolo. Ed Eleanor, che dimostrava una padronanza della propria espressione che faceva onore alla sua preoccupazione per l'immagine pubblica del padre, presto trovò l'occasione di dirle: «Mio padre voleva solo che rispondessi a un biglietto». Catherine incominciò allora a sperare che il generale non l'avesse vista o che per educazione egli glielo lasciasse credere. Solo per questo osò restare ancora in sua presenza, anche dopo che la compagnia li ebbe lasciati. E infatti nessun incidente li turbò. Durante le sue riflessioni mattutine, Catherine giunse alla conclusione che doveva compiere da sola il successivo tentativo di aprire la porta proibita. Da ogni punto di vista, sarebbe stato molto meglio che Eleanor non ne sapesse niente. Esporla al pericolo di essere nuovamente scoperta, farla entrare in un appartamento la cui vista doveva stringerle il cuore, non sarebbe stato un comportamento da amica. L'ira del generale non poteva comunque rivolgersi verso di lei con la stessa violenza con cui avrebbe potuto abbattersi sulla figlia. E inoltre pensava che la visita sarebbe stata più soddisfacente se fosse stata sola. Sarebbe stato impossibile spiegare a Eleanor i sospetti di cui lei molto probabilmente era fino allora beatamente ignara. E quindi non avrebbe potuto in sua presenza cercare quelle prove della crudeltà del generale che, seppure rimaste nascoste fino ad allora, era fiduciosa di poter scoprire sotto forma dei frammenti di un diario continuato fino all'ultimo respiro. Conosceva ormai perfettamente la strada per arrivare all'appartamento e, poiché voleva finire l'ispezione prima del ritorno di Harry, che era atteso per il giorno seguente, non c'era tempo da perdere. La giornata era luminosa, il suo coraggio era alle stelle. Alle 4, ora erano le 2, non avrebbe sollevato nessun sospetto se fosse semplicemente andata a vestirsi mezz'ora prima del solito. Era fatta. Catherine si ritrovò sola nella galleria prima che gli orologi avessero smesso di suonare. Non c'era tempo per riflettere. Si affrettò, scivolò attraverso la porta scorrevole, facendo il minor rumore possibile e senza fermarsi a osservare niente. Né a riprendere fiato, corse verso la porta in questione. Il chiavistello cedette alla sua mano, fortunatamente senza emettere nessun suono che potesse allarmare anima viva. Entrò in punta di piedi, la stanza era davanti a lei, ma passò qualche minuto prima che riuscisse a muovere un altro passo. Quello che vedeva l'aveva inchiodata al suolo, sconvolta in ogni fibra. Vide un appartamento grande e ben proporzionato, un bel letto ricoperto da una fodera di cotone, di quelle che sistemano con cura le cameriere quando nessuno vi dorme. Una stufa di colore vivo, armadi di mogano e sedie elegantemente dipinte, su cui da occidente il sole riversava gioiosamente i propri caldi raggi, entrando da due finestre. Catherine si era aspettata di avere l'animo agitato da una ridda di sentimenti, e così era stato. All'inizio aveva provato sorpresa e dubbio, e subito dopo un raggio di buonsenso ci aveva aggiunto un amaro sentimento di vergogna. Poteva non essersi sbagliata circa la stanza, ma quanto si era sbagliata su tutto il resto, sulle parole della signorina Tilney, sui propri stessi calcoli. Questo appartamento al quale aveva attribuito un'età così vetusta, una posizione così terribile, si rivelava parte dell'ala costruita dal padre del generale. C'erano altre due porte nella camera che portavano probabilmente a degli spogliatoi, ma non aveva nessuna voglia di aprirle. Potevano forse contenere l'ultima camicia da notte indossata dalla signora Tilney o l'ultimo libro che aveva letto, restare a testimoniare ciò cui non si doveva alludere nemmeno con un bisbiglio? No, qualsiasi fossero stati i crimini del generale, egli era troppo intelligente per lasciarsi dietro delle prove. Era stanca della sua esplorazione e non voleva altro che essere al sicuro nella sua stanza, dove poteva essere certa che solo il suo cuore conosceva il segreto della sua stessa follia, e stava per ritirarsi pian piano, così come era entrata, quando un suono di passi di incerta provenienza la fece fermare tremante. Essere scoperta anche da un servitore sarebbe stato spiacevole, ma essere scoperta dal generale, e pareva che egli fosse sempre là dove meno lo si aspettava, sarebbe stato molto peggio. Ascoltò. Il suono era cessato e, decidendo di non perdere nemmeno un attimo, uscì dalla stanza e chiuse la porta. In quel momento un'altra porta si aprì al piano di sotto. Sembrava che qualcuno salisse in fretta le scale, mentre lei doveva ancora attraversare il pianerottolo prima di poter giungere alla galleria. Non poteva muoversi. Presa da un indefinibile terrore, fissò lo scalone da cui, dopo pochi istanti, emerse Harry. «Signor Tilney!» esclamò con tono che esprimeva ben più della comune sorpresa. Anche lui sembrò sorpreso. «Buon Dio!» continuò senza dargli il tempo di aprir bocca. «Come mai siete qui? Come mai siete salito per questa scala?» «Come mai io sono salito per quella scala?» replicò lui, sempre più sorpreso. Perché è la strada più breve dal cortile delle stalle alla mia camera? E perché non avrei dovuto salirvi? Catherine si riprese, arrossì violentemente e non riuscì a proferire un'altra parola. Pareva che lui cercasse di trovare nel suo aspetto la spiegazione che le labbra non pronunciavano. Catherine si mosse verso la galleria. «E posso permettermi», disse lui, chiedendo la porta scorrevole, «di chiedervi a mia volta come mai voi siete qui? Questo passaggio è una via dalla sala della colazione al vostro appartamento, almeno altrettanto straordinaria quanto lo è quella scala dalle stalle al mio. Sono stata, disse Catherine, a vedere la stanza di vostra madre. La stanza di mia madre? E cosa c'è da vedere di straordinario? Oh, niente, proprio niente. Non credevo tornaste prima di domani. Non pensavo di poter tornare prima, quando sono partito. Ma 3 ore fa ho avuto il piacere di scoprire che non c'era più nulla che mi trattenesse. Ma voi siete pallida, forse non sapevate, non avete pensato che si potesse arrivare qui direttamente dai servizi? No, non ci ho pensato. Avete scelto una bella giornata per la vostra cavalcata. Sì, molto bella. Ed Eleanor vi fa cercare da sola la strada di tutte le stanze della casa? Oh, no, no. Me ne ha mostrata la maggior parte sabato e stavamo per entrare in queste stanze, solo che... E le mancò la voce. Vostro padre era con noi. E ve lo ha impedito, disse Harry guardandola attentamente. Avete guardato in tutte le stanze di quel passaggio? No, io volevo solo vedere... Oh, deve essere molto tardi, devo andare a vestirmi. Sono solo le 4:15, e le mostrò l'orologio. E non siete a Bath adesso. Niente teatro, niente balli, quindi niente preparativi. A Northanger una mezz'ora è sufficiente. Non aveva niente da opporre a queste considerazioni e quindi dovette rimanere, benché temendo ulteriori domande, sentisse per la prima volta da quando si conoscevano il desiderio di lasciarlo. Percorsero lentamente la galleria. Avete ricevuto lettere da Bath dopo la mia partenza? No, e mi sorprende molto. Isabella aveva promesso fedelmente che mi avrebbe scritto subito. Promesso? Fedelmente? Una promessa fedele? Oh, questo mi incuriosisce. Ho sentito parlare di gesti di fedeltà, ma una promessa fedele? La fedeltà del promettere è una capacità comunque che vale poco la pena di conoscere, dato che può ingannarvi e addolorarvi. La camera di mia madre è molto piacevole, vero? Grande, allegra. E quegli spogliatoi così ben collocati. Mi colpisce sempre come l'appartamento più confortevole della casa e E mi meraviglia che Eleanor non ci vada a stare lei. Immagino che vi abbia mandato a vederlo. No. Avete fatto tutto per vostro conto? Catherine non rispose. Dopo un breve silenzio, durante il quale l'aveva osservata attentamente, egli aggiunse: Dato che non c'è niente nella stanza in sé che possa destare curiosità, questa deve essere nata da un sentimento di rispetto per la personalità di mia madre, descrittavi da Eleanor, che effettivamente ne onora la memoria. Credo non ci sia mai stata una donna al mondo migliore. Ma è raro che la virtù possa vantarsi di suscitare un tale interesse. I meriti domestici e modesti di una persona sconosciuta non creano spesso quel tipo di affetto pieno di fervore e di venerazione che può ispirare una visita come la vostra. Forse Eleanor ve ne ha parlato molto. Sì, parecchio. Cioè, no, non molto, ma quello che ha detto era molto interessante, la sua morte così improvvisa. E parlava lentamente, esitante. E voi, nessuno di voi a casa, e vostro padre, ho pensato che forse non le voleva molto bene. E da queste circostanze, egli replicò, il suo sguardo acuto era fisso su Catherine, voi deducete forse la probabilità di qualche negligenza, qualche... Involontariamente lei scosse la testa, o magari di qualcosa di meno scusabile? E lei alzò gli occhi verso di lui e lo guardò come non aveva mai fatto prima. La malattia di mia madre, continuò lui, l'attacco che finì con la sua morte fu effettivamente improvviso. Lo fu il suo stesso male, di cui però aveva spesso sofferto, una febbre biliare di causa quindi costituzionale. Il terzo giorno, non appena si riuscì a convincerla, incominciò ad assisterla un medico, un uomo estremamente degno in cui lei aveva sempre riposto piena fiducia. Questi affermò che era in pericolo e quindi furono chiamati altri due medici il giorno dopo, che la assistettero quasi ininterrottamente per 24 ore. Morì il quinto giorno. Durante il decorso della malattia, Frederick e io eravamo a casa tutti e due e l'abbiamo vista più volte. E da quello che abbiamo potuto osservare noi stessi, possiamo testimoniare che ha goduto di ogni possibile attenzione che l'affetto di coloro che la circondavano potesse immaginare e che fosse consona alla sua stessa posizione sociale. È vero che la povera Eleanor era assente e si trovava a una distanza tale che quando ritornò poté vedere la madre solo nella bara. Ma vostro padre, disse Catherine, lui ne fu afflitto? Per un certo periodo moltissimo. Avete sbagliato pensando che non le volesse bene. Io sono convinto che l'amasse quanto era possibile per lui amare. Non tutti, sapete, abbiamo un carattere tenero. E non voglio dire che mentre era in vita lei non abbia dovuto sopportare parecchio, ma se il suo comportamento a volte la feriva, egli non la offese mai intenzionalmente. Aveva per lei una stima sincera e fu veramente afflitto per la sua morte, anche se non indefinitamente. Oh! Ne sono felice, disse Catherine. Sarebbe stato talmente sconvolgente. Se vi comprendo bene, avete ipotizzato un'azione così orribile che non ho parole per definirla. Cara signorina Morland, pensate di che tremenda natura sono stati i sospetti che avete nutrito e in base a quali elementi avete formulato il vostro giudizio. Ricordate in che paese e in che epoca viviamo? Ricordate che siamo inglesi e che siamo cristiani? Fate appello alla vostra intelligenza, al vostro buon senso, a quello che potete osservare, quello che accade intorno a noi. La nostra cultura ci può portare forse a queste atrocità? E le nostre leggi chiudono forse gli occhi su tali colpe? Potrebbero venir perpetrate all'insaputa di tutti in un paese come questo, dove gli scambi sociali e culturali sono a un tale livello, dove ognuno è circondato da un intero vicinato di spie volenterose e dove le vie di comunicazione e i giornali fanno e che tutto accada alla luce del sole? Carissima signorina Morland, ma come vi sono venute certe idee? Avevano raggiunto la fine della galleria e piangendo di vergogna lei corse nella sua stanza.